numeri, torna a crescere il numero di attualmente positivi. Ieri 1600, di morti ieri 610, il numero dei guariti è intorno ai 2000, ma continua, ed è questa la notizia più importante, ad allentarsi la pressione sulle terapie intensive per il quinto giorno consecutivo. Il resto della giornata si è composto del voto di fiducia sul decreto Cura Italia, arrivato tra polemiche e scontri parlamentari che ricordano i bei tempi pre-Covid. Si compone dell'Eurogruppo, che ha raggiunto un accordo di massima sui fondi per affrontare la crisi, con il MES condizionato al solo utilizzo per spese sanitarie e la prossima costituzione di un fondo per il supporto economico dei paesi messi in difficoltà dal virus. Come sarà finanziato? Beh, questo è il nodo, con gli Eurobond che non paiono essere usciti di scena, forse. Intanto si continua a discutere di cosa riaprire e quando, ma tutto slitta a inizio maggio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, alle 6.30 di questo venerdì 10 aprile, con questa nuova puntata di 24 Mattino. Al microfono Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti in assistenza insieme a Giorgio De Luca. Iniziamo come sempre con il nostro Bob Marley, l'inno che abbiamo scelto per questo periodo, questa voce che ci dice, insomma, che tutte le cose andranno a posto. Come diciamo sempre, non un modo per mancare di rispetto a chi sta soffrendo in questo momento, a chi ha sofferto un lutto, a chi è preoccupato per il futuro, ma un modo per farci coraggio, C'è il 349-238-6666, come sempre, che è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, soprattutto audio in questo periodo. Sentire le nostre voci, le vostre voci, è particolarmente importante in questi giorni. Come vanno le cose? Come vi state preparando a questa Pasqua un po' strana? Se state lavorando, se non state lavorando? Come ve la vivete, come ve lo vivete questo periodo di isolamento? Dai. Da cosa iniziare? Dalle notizie della serata di ieri, da questo Eurogruppo che si riunisce. Insomma, tutto sempre viene drammatizzato, no? Dalla politica. In realtà anche questo Eurogruppo è una tappa di un percorso, per cui viene dato il via libera in questa riunione dei ministri delle finanze europei, viene dato il via libera a tutta una serie di misure, l'intervento della Banca Europea degli Investimenti, il fondo per questa sorta di cassa integrazione europea, SURE. Si sblocca un elemento fondamentale, il fatto che si potrà utilizzare il MES, il famoso fondo salva stati, con la sola condizionalità di utilizzare quel denaro per spese sanitarie o correlate alle spese sanitarie. Era uno degli elementi ai quali l'Olanda si opponeva e sul quale ha ceduto. L'Italia fa sapere di non averlo attivato e di non avere intenzione di attivarlo. Come sapete, la questione è essenzialmente politica, cioè se le condizionalità sono queste, insomma, che si chiami Pippo, Paperino, MES, poco importa, però insomma non lo attiveremo. Il presidente dell'Eurogruppo Centeno che annuncia l'accordo. Today we agreed to establish pandemic crisis support for the amount of 2% of member states GDP. That is close to 240 billion. Le parole di Centeno, come si diceva, all'interno di questo accordo entra anche cosa? La prossima costituzione di un fondo che non si sa esattamente come verrà finanziato, e però resta un po' sul piatto questa ipotesi dei famosi corona bond, dei famosi euro bond. Secondo Matteo Salvini però è un accaporetto. In questi minuti leggevo, come avrà letto anche la sua redazione, che pare che a Bruxelles abbiano raggiunto un accordo, sì, che per l'Italia sarebbe, ecco, caporetto. Questo le volevo dire. Se è come la dicono, sarebbe la sconfitta più clamorosa, altro che Italia-Germania 4-3. Oh, e a proposito di Italia-Germania, guardate che succede veramente una cosa curiosa. Il Die Welt pubblica un articolo nel quale si dice che cosa? Una cosa, devo dire, abbastanza nota. Allora, viene fatto in modo duro, cioè viene detto: signora Merkel, non ceda, non diamo fondi all'Italia perché c'è il rischio che questi fondi vengano utilizzati dalla criminalità organizzata, oppure si mettano dei rigidi controlli. Oh, ma quante volte ne abbiamo parlato dei fondi europei utilizzati dalla criminalità organizzata? E il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, chiede al governo tedesco di dissociarsi da un articolo di un libero giornale, nemmeno un giornale di Stato. Ah, sentiamo. Che un quotidiano straniero dica che la mafia sta aspettando i soldi che l'Italia sta chiedendo a Bruxelles è una affermazione vergognosa e inaccettabile. Io spero che il governo tedesco prenda le distanze da quelle considerazioni su questo quotidiano tedesco, che è tra i principali quotidiani in Germania. E però, insomma, sapete qual è la cosa curiosa? Che Beppe Grillo diceva esattamente le stesse cose. Bisogna capire dove vanno i finanziamenti. Io sono già venuto 2 o 3 volte qui in Parlamento. Sono venuto per dire: ragazzi, non date più finanziamenti all'Italia, perché date dei finanziamenti e scompaiono in 3 regioni. Calabria, Sicilia, quindi mafia, 'ndrangheta e camorra. Non date di più. Allora controlliamo i flussi. Io voglio controllare i flussi dei soldi. Non sappiamo dove vanno. Insomma, anche Beppe Grillo è un pezzo del 2014. Allora, veniamo al cuore del tema della ripartenza, Allora, Carmelo Lauricella, prepariamoci un attimo con Giuseppe Conte, che intervistato dalla BBC dice: le prime riaperture solo a fine mese. Se ovviamente gli scienziati, gli esperti ci conforteranno con i loro suggerimenti, potremo iniziare ad allentare qualche prima misura già verso la fine di questo mese. Ed eccoci qua, il tema, grande tema della riapertura. Siamo con Roberta Villa, giornalista, divulgatrice scientifica, per la prima volta a noi. Ciao Roberta, buongiorno, eccoci qua. Ci sei? Ce l'abbiamo Roberta Villa? No, evidentemente no, abbiamo qualche problema. Allora sentiamoci un altro pezzo di Conte intanto, va? Non possiamo passare dal lockdown alla riapertura, sentiamo, via. Mi hanno confermato che la curva epidemiologica inizia a segnalare un declino, una stabilizzazione. Diminuiscono proporzionalmente il numero dei contagiati. Possiamo ritenerci fiduciosi che continuando così riusciremo a superare la fase più acuta. Però attenzione, non possiamo allentare la soglia di attenzione. Non possiamo passare da un lockdown a una liberalizzazione delle attività produttive. Dobbiamo arrivarci per via graduale. Oh, eccola qua, Roberta Villa. Finalmente riesco a sentirti, forse. Ci sei? Roberta? Ragazzi, evidentemente abbiamo qualche problema tecnico stamattina, le cose non girano. Facciamo così, guarda, andiamo sul Parlamento, andiamo su quello che è successo ieri in Parlamento. Si votava il Cura Italia, E ragazzi, un delirio, fatemelo dire, abbastanza indegno, eh? Insomma, ci sono stati interventi perfettamente normali e anche interventi un po', insomma, un po' da vecchio clima. Ignazio La Russa. Senatore, non si può riprendere in aula, senatore Presutto. Ah, bello che sei, sei bello con quella mascherina. Lo sai che quella mascherina non protegge? No, lei... Quella mascherina sputa fuori. Lei si rivolga a me. Queste di mascherina. Quella non va bene, quest'ore. È un untore. Quello è un untore. È un untore. Senatore Irola, si rivolga a me. È un untore. Sant'Angelo, mi dica le cose giuste. Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Nessuno si può permettere di definire quest'Aula, il Parlamento italiano, un circo, perché altrimenti, collega Bagnai, se fosse così non ci sarebbero dubbi su chi siano i pagliacci, se questo è un circo. Calderoli. Ha chiesto di parlare il ministro D'Incà. Presidente, colleghi, chiedo ancora un 15 minuti di sospensione. Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Calderoli, ne ha facoltà. Grazie. Allora, il testo c'è, sì o no? È lo stesso che le è stato consegnato per la valutazione di ammissibilità, sì o no? Se c'è bisogno ancora di un quarto d'ora, mi spiace, ma nel momento in cui si è chiesta la fiducia, dopo le dichiarazioni di voto, si vota su quel testo che è stato depositato. Punto! Adesso il Parlamento chiede di votare perché ne ha le balle piene. Come sentite? Le misure di riapertura inizieranno dal 3 maggio, come ci ha detto Conte, ma pare che in Parlamento, per così dire, il lockdown sia già finito. Allora, ce l'abbiamo Roberta Villa finalmente. Mamma mia, oggi una fatica con questi tentativi. Roberta, ciao, buongiorno. Vabbè, ciao, promesso ciao. Che è la prima volta con noi, la prossima volta sicuramente la azzeccheremo un po' di più dal punto di vista, diciamo così, del collegamento. Allora, Roberta, dunque, queste 3 settimane in più sono a tuo giudizio, per carità, e poi bisogna sentire, sono necessarie, non sono necessarie? Che mi dici? Naturalmente non tocca a me dirlo, però ce l'aspettavamo tutti, era abbastanza prevedibile questo prolungamento. Proprio l'altro giorno è uscito sull'Enset uno studio relativo alla Cina al di fuori della provincia di Hubei, che mostra, proprio conferma la necessità di una ripresa molto molto lenta, con numeri, almeno quelli ufficiali, molto molto inferiori ai nostri. Perciò purtroppo credo che sia inevitabile, anche se non c'è dubbio che cominciamo a soffrire seriamente di questa chiusura a vari livelli, naturalmente anche in relazione alle condizioni in cui siamo nelle case, però per molte persone sta cominciando a diventare veramente un problema. Sì. Oggettivamente inizia a diventare pesante, insomma, si legge, si vede anche sui social, insomma, no? Questa pesantezza inizia ad emergere e crescono anche i numeri di supporto psicologico alle persone che son chiuse in casa. Dall'altra parte c'è tutta una questione che ha a che fare con le aziende. Roberta, hai un'idea dal punto di vista internazionale come si sono mossi gli altri, ma intendo soprattutto la Cina, cioè chi è più avanzato rispetto a noi, naturalmente penso alla Cina, cioè con che tempi sono ripartiti con la produzione loro? Ma a Wuhan hanno cominciato leggermente a riaprire dopo 11 settimane. Quindi siamo ancora molto indietro rispetto a questo. E noi comunque a Milano prima guardavamo Wuhan come una situazione distopica, oddio cosa succede, ma noi siamo messi peggio qua adesso, quindi sicuramente non possiamo sperare in una riapertura troppo rapida, troppo perché rapida. Il problema qui è pensare a una curva che si appiattisce. Purtroppo questa curva andrà scendendo, ma non potremo avere casi zero. Comunque la malattia è talmente diffusa, il contagio è talmente diffuso Roberta, di quanto non ci dicano ovviamente i dati della Protezione Civile, questo lo diciamo quotidianamente, insomma, no? I dati che arrivano alla Protezione Civile sono dei dati indicativi. Sono la punta di un iceberg, esatto, certo. No? E quindi è chiaro che dobbiamo stare molto attenti, anche appunto questo studio che leggevo ieri, pubblicato su Lens, dice proprio non basta pensare di riaprire e poi quando il famoso numero R, che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, sale sopra l'1, richiudere, perché è comunque molto difficile, bisogna mantenere una certa pressione sul contagio, sulla diffusione del virus, altrimenti diventa di nuovo ingestibile. Sì, forse si può fare, come scrive un ascoltatore. Poi ne parleremo oggi, ospiteremo alle 8:20 circa il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Dice, giriamo il paradigma, apriamo dove abbiamo sicurezza. Sì, assolutamente. Per esempio ieri Fiat Chrysler ha stilato un accordo anche con i sindacati per una parziale riapertura, un accordo poi validato, l'hanno fatto validare da Roberto Burioni, per appunto la riapertura parziale degli stabilimenti. Forse si può pensare a qualcosa di questo genere. Dal punto di vista dei numeri, Roberta, dicevo stamattina che il segnale più interessante che sta arrivando in questi giorni è questo calo di ricoveri nelle terapie intensive, no? Il quinto giorno di cali consecutivi, che dato che è l'unico numero affidabile, effettivo che abbiamo, è un segnale importante. Sì, questo è l'unico, diciamo, è consolante il fatto che l'unico segnale davvero in un certo senso indicativo sia in discesa, appunto perché invece il numero dei casi e quello delle vittime ieri di nuovo oscillava verso l'alto. Io metto in guardia dal seguire giorno per giorno, ma lo fai sempre anche tu, insomma, il numero che sale o che scende, perché comunque è soggetto a tante variabili, alla registrazione dei dati. Invece in effetti gli accessi in terapia intensiva sono un po' più indicativi, e anche a sentire i medici effettivamente avvertono un po' meno pressione negli ultimi giorni rispetto al, diciamo, al punto di picco di qualche giorno fa, di settimana scorsa e così via. E quindi questo è un dato positivo, però c'è tutto il territorio, il problema sono le tante persone che stanno male a casa e che ancora non riescono a ricevere un'assistenza adeguata. Quello è un grandissimo punto. Intanto il traffico, ne abbiamo parlato parecchio, anche di questo tema, del problema dell'assistenza a casa, di come è mancata per esempio e soprattutto nelle zone del Bergamasco e del Bresciano, il traffico. Mattino. Allora, la fase 2. Viene istituita dopo l'incontro di ieri una specie di task force. Sentiamo proprio Boccia. Sta nascendo una cabina di regia dentro cui ci sono le regioni, i comuni, tutti gli enti locali, la comunità scientifica, e ci sono anche le parti sociali, maggioranza e opposizione. Lì definiremo un percorso. Inutile dare date in questo momento perché non sarebbe giusto e corretto. Sì, ovviamente era Francesco Boccia, era il ministro e non il presidente di Confindustria. Un'ultima domanda, Roberta, poi ti saluto. La questione dei test sierologici, dei quali tanto si parla, devo dirti che qua sono diventato matto, perché ho avuto ospiti, persone che mi dicevano che sono affidabili e persone che mi dicevano che non sono affidabili. E questi test sierologici, che dovrebbero, lo spieghiamo ancora una volta agli ascoltatori, dire, insomma, se hai gli anticorpi, faccio molto semplice, se hai gli anticorpi, e quindi dare una sorta di patente di immunità che consentirebbe una parziale ripartenza. Cosa ne sappiamo effettivamente? Allora, quello che sappiamo effettivamente è che a tutt'oggi, anche diciamo con la dimostrazione certa della presenza degli anticorpi, la presenza degli anticorpi di per sé non implica che una persona non sia contagiosa, perché comunque in molti casi contemporaneamente si ritrova anche un tampone positivo. Questo è il primo dato. Secondo dato, non sappiamo quanto questi anticorpi siano protettivi e siano protettivi nel tempo, quindi questa è una domanda che la scienza, diciamo, è fondamentale della ricerca in questo momento, capire se l'infezione dà un'immunità permanente, quanto dura questa immunità. Terza cosa, i test attualmente disponibili non sono validi per dire se una persona è o meno immunizzata, è o meno protetta, è o meno non contagiosa, perché non sono ancora affidabili in questo senso, lo ha detto anche una nota del Ministero, quindi possono essere utilizzati dalle regioni, come so che sta facendo la Regione Puglia, credo anche altre regioni, per fare degli studi epidemiologici, per verificare in parallelo ai tamponi, diciamo per aggiungere notizie sulla distribuzione della malattia e sulla affidabilità di questi test. Di fatto per fare un'indagine epidemiologica, in sostanza. Esatto, non ancora per poter dare a una persona un patentino di protezione. Allora, grazie Roberta Villa, giornalista, divulgatrice scientifica. Alla prossima, Roberta. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buona grazie giornata. Grazie a te, Simone. A presto, ciao. Allora, da cosa ricominciamo? C'è tutta la questione della zona rossa che non fu fatta a Nembro e Alzano Lombardo. Ieri ha parlato anche il presidente di Confindustria Bergamo, Scaglia, e così si è difeso dalle accuse. Le accuse erano: è stata Confindustria a non volerlo. Sentiamo. Sul tema della zona rossa, se posso, così chiariamo anche questo, la nostra posizione è sempre stata quella di dire che noi non abbiamo le competenze e non abbiamo la base informativa per poter prendere una posizione su questo tema, cosa che infatti non abbiamo fatto, e naturalmente questo è un compito delle autorità, è compito della politica fare sintesi, decidere e assumersi poi le responsabilità delle proprie scelte. Noi non abbiamo mai fatto pressioni. Il sindaco di Nembro, Cancelli. Abbiamo sempre avuto dei ritardi nell'assunzione delle decisioni necessarie. Questi ritardi credo che siano imputabili in parte a non aver considerato come prioritario quelle che erano le indicazioni da parte dei tecnici. Io già allora dicevo, è chiaro che la zona rossa è un problema perché crea delle condizioni difficili, ma in questa scelta il parere tecnico deve essere prevalente rispetto a quello che è l'orientamento politico. Ci arriveremo a un certo punto a capire che cosa effettivamente è successo in quelle ore, perché non ce l'abbiamo chiaro. Torna da noi Marco Pedroni, che è presidente di Coop Italia. Pedroni, buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei. Allora, sono ore intense e continuano ad essere ore intense per la grande distribuzione, per tutta una serie di motivi, a parte il fatto che siamo sotto Pasqua e per quanto sia una Pasqua particolare, insomma, le persone al supermercato ci vanno e abbondantemente per prepararsi a tutto questo, con le difficoltà che conosciamo di questo periodo e con un po' di segnalazioni, Pedroni, che ci sono arrivate, e ve ne volevamo chiedere conto, di un aumento dei prezzi nella grande distribuzione, nei supermercati, insomma anche abbastanza consistente per certi articoli, soprattutto l'ortofrutta. Che cosa ci dice? Che rischi di questo tipo ci sono, ed è il motivo per cui noi abbiamo deciso di bloccare i prezzi per 2 mesi per garantire ai consumatori che non ci saranno variazioni nelle condizioni di acquisto. Il tema però non riguarda solo la distribuzione, riguarda tutta la filiera. Bisogna in qualche modo che in ogni punto della filiera, a partire dall'agricoltura, ma dall'industria di trasformazione, per andare a finire poi la distribuzione, ci sia questa intenzione, volontà di bloccare i prezzi. Evidentemente qualcuno sta speculando, anche se devo dirle i dati sono ancora abbastanza rassicuranti, non solo per quanto riguarda noi, che ovviamente abbiamo fermato tutti i prezzi, ma anche per quanto riguarda in generale la distribuzione. Però tensioni su singoli settori, categorie ci sono. Cioè è più una questione aneddotica, dice lei, Pedroni, che è una questione, insomma... Ci sono dei dati raccolti in questo momento da Nielsen, dai RAI, che dicono che c'è qualche tensione su alcuni punti, c'è qualche soggetto che sta facendo qualche speculazione, ma in generale è un fenomeno ancora molto isolato. Ci sono situazioni che riguardano invece specifici prodotti parliamo soprattutto dei dispositivi di protezione individuali, delle mascherine, dei guanti, certo, eccetera, su cui non c'è ancora molta chiarezza del mercato, però non è un problema della distribuzione, è un problema generale di reperibilità di questi prodotti. Senta Pedroni, già che è con noi, ma mi spiega come mai stanno finendo la farina e il lievito? Che cosa sta succedendo? Beh, questo diciamo invece è legato a un'altra cosa. Intanto non stanno finendo. Ci sono qua a volte, soprattutto sul lievito, sulla farina andiamo un po' meglio. Sì. La gente sta facendo da mangiare a casa, è anche abbastanza normale. Sì. E invece di comprare piatti pronti e prodotti... diciamo così, di facile e rapida preparazione, si sfoga sulla cucina. Sì. E quindi c'è una domanda anche di prodotti per preparare piatti, per preparare ricette, con i tempi che ormai non ci si perdeva più, adesso invece con questa situazione di fermo a casa molte persone sono rimesse a fare da mangiare. Senta Pedro, un'ultima domanda sulla questione dei prezzi sempre, ed è questa, vede dei rischi nelle prossime settimane appunto, sì, sul fronte dei prezzi? Perché sì, insomma, voi come grande distribuzione, così come le aziende che si occupano di della raccolta, del trasporto, le aziende agricole, ovviamente avete avuto un incremento dei costi tutti quanti, perché sostenere questa situazione non è facile, devi fornire dispositivi di protezione a tutti, probabilmente hai bisogno di nuovo personale da mettere là a controllare che gli ingressi siano contingentati, eccetera eccetera. Ci sono tutti questi elementi che chiaramente creano un aggravio di costi, e in più dall'altra parte la questione che abbiamo spesso raccontato è la manodopera agricola che manca nei campi, quindi più difficile raccogliere, scarsità, presumibile scarsità in alcuni punti e su alcuni prodotti eccetera. Lei vede il rischio di un aumento dei prezzi, di tensioni sui prezzi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Allora, questo rischio c'è ed è anche un rischio importante, ed è il motivo per cui non solo noi abbiamo deciso di fermare i prezzi facendo anche un sacrificio, ma anche stiamo chiedendo ai partner dell'industria e dell'agricoltura di avere analogo atteggiamento, perché in questo momento va protetta la capacità di spesa e la sicurezza della spesa delle persone innanzitutto. E poi però non c'è semplicemente l'aumento dei costi che in diversi punti della filiera si possono registrare a causa delle cose che bisogna fare per contrastare il coronavirus. C'è anche un tema che è su scala globale, che riguarda le materie prime, gli approvvigionamenti e le tensioni che sulle materie prime si possono creare. Va anche detto che non c'è solo una tensione di gran parte di prezzi al rialzo, ma ci può essere anche una tensione al ribasso eccessiva, perché laddove, facciamo l'esempio del latte, ma vale anche per altri prodotti, laddove ci sia un eccesso di offerta, perché in questo momento la domanda non trova sbocco, perché per esempio i bar, sì, ristoranti sono chiusi. In questi casi ci può essere una tensione dei prezzi al ribasso che colpisce i produttori di quella che li manda in crisi. Grazie Marco Pedroni, dobbiamo veramente chiudere. Presidente di Coop Italia, Carmelo Lauricella, giusto 10 secondi, l'accenno di Bob Marley, va? L'accenno di Bob Marley a chiudere. Fermiamo, c'è GR24, la rassegna stampa, e torniamo, non vi preoccupate, anche sul MES, sul fondo salva stati, sugli eurobond e su tutto questo, a tra poco.